Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano, il vostro sguardo su tutto ciò che accade al di fuori dell'Italia. Vi porgo i saluti anche da parte della redazione. Antonio Talia, Eleonora Aragona, Silvia Malnati. In regia quest'oggi c'è Valeria Bernardi. Vi ricordo anche le coordinate, i numeri per interagire con noi, 349-238-6666, che vale sia per gli sms che per i whatsapp. Su Twitter cercateci Nessun Luogo 24 oppure il mio Giampaz e infine Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. La lunga prima pagina di Nessun Luogo è Lontano di quest'oggi parte da un'altra prima pagina, quella di ieri del New York Times, che titolava Both the Arsonist and the Firefighters. Si riferiva all'Arabia Saudita e, senza troppi mezzi termini, diceva, fondamentalmente, incendiari e pompieri allo stesso tempo. La tesi contenuta nell'articolo, che intervista decine e decine di esperti nei quattro angoli del globo, è questa: l'Arabia Saudita esporta un'ideologia estremista e allo stesso tempo la combatte. Questo paradosso, per esempio, nelle parole di William McKenzie, che è un ricercatore della Brookings Institution. McKenzie dice: gli sauditi promuovono una forma benefica di Islam che separa nettamente un ristretto numero di veri credenti e tutti gli altri, creando così la base per un violento estremismo e poi anche per il terrorismo. E senza troppi mezzi termini, anche l'etichetta che Farid Zakaria, se guardate i network internazionali lo riconoscerete, è un volto noto della CNN, editorialista fra le altre cose del Washington Post, dice: l'Arabia Saudita ha creato un mostro nell'Islam. Oggi vi raccontiamo quel mostro. All Saudis are expected to attend mosque every Friday. E chi ha raccontato molto bene la complessa, badate bene, realtà saudita è stato un team di giornalisti, sia britannici che americani, ITV e PBS, in una produzione congiunta. 6 mesi di lavoro, telecamere nascoste, pensate, in Riyadh e negli altri paesi, in altre città dell'Arabia Saudita, per raccontare grandi contraddizioni. Il documentario si chiama Saudi Arabia Uncovered. Contraddizioni e stereotipi che spesso caratterizzano il racconto che i giornali e i media fanno, soprattutto di realtà lontane, e un po' la missione di questo programma è andare a rompere quegli stereotipi. C'è chi ci prova attraverso la musica, per esempio. La voce che sentite è quella di Rotana Tarabzuni, che la BBC ha eletto l'anno scorso fra le 100 donne e 100 artiste più influenti. È una ragazza, un'artista saudita, si è poi trasferita negli Stati Uniti e è stata oggetto di attacchi piuttosto feroci per le sue critiche anche al regime saudita, e lei si è fatta promotrice di una battaglia anche sui social, in cui, insomma, non le mandava certo a dire a chi la criticava. Hey, can you imagine answering to no one, only to your heart? Allora, vi dicevo, grandi paradossi e grandi contraddizioni in un paese che è sì il grande alleato degli Stati Uniti nell'area, ma è allo stesso tempo quello che ha prodotto, lo ricordava il New York Times proprio ieri, innanzitutto Osama Bin Laden, ma poi anche 15 dei 19 dirottatori dell'11 settembre, ha il record di attentatori suicidi in Iraq dopo l'invasione britannica-americana del 2003, ha inviato più recentemente oltre 2500 foreign fighters che si sono uniti alle milizie dello Stato Islamico. E poi c'è un aspetto prettamente economico, ma legato alla religione, perché negli ultimi anni l'Arabia Saudita ha stanziato un fiume di denaro per costruire moschee e scuole coraniche un po' in tutto il mondo. Qual è l'obiettivo di questa tentata egemonia a suon di religione? Giro immediatamente questa prima domanda a Matteo Legrenzi, professore associato e direttore del Master in Studi Strategici e Sicurezza Internazionale, Università Ca' Foscari di Venezia. Professor Legrenzi, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Allora, un grande fiume di denaro, centinaia di milioni di dollari spesi negli ultimi anni per andare a costruire moschee dall'Africa al sud-est asiatico, ma anche in zone molto più vicine alle nostre, scuole coraniche. Con quale obiettivo, professore? L'obiettivo primario dei regnanti sauditi è quello di rimanere a regnare sull'Arabia Saudita, e per fare questo il re e la famiglia reale saudita vedono come necessaria e come loro ruolo precipuo quello di costruire moschee, ma anche costruire ospedali e varie altre attività caritatevoli in tutto il mondo islamico. È un paese che naturalmente è facile da illustrare con stereotipi. Ricordiamoci però che è anche un paese in cui la prima scuola per donne è stata fondata negli anni 70 e adesso la maggioranza dei laureati è donna, quindi una popolazione conservatrice talvolta ben di più di quanto lo sia la casa regnante. Allora, spesso gli stereotipi sono distrutti dai numeri, a noi piace dare i numeri, ascoltiamoli insieme. Milioni di chilometri quadrati. L'Arabia Saudita occupa il doppio della superficie di Francia e Germania combinate e siede su più del 25% delle riserve di petrolio mondiali. Al momento il paese è in grado di produrre 10 milioni di barili di greggio al giorno, ma questo dato è in continua crescita. Il territorio saudita è prevalentemente desertico e l'83% dei 30 milioni di cittadini sauditi si concentra nelle grandi città. Riyadh, Jeddah, Mecca e Medina. Queste ultime due sono le città sacre per tutto l'Islam. Stime diverse indicano che circa il 20% dei sauditi vive in povertà, mentre il patrimonio personale del monarca assoluto Re Abdullah è stimato in 18 miliardi di dollari. L'Arabia Saudita è estremamente dipendente dalla forza lavoro straniera, che costituisce circa l'80% del totale. Nel 2015 il PIL è cresciuto del 3,8%, mentre nel secondo quadrimestre del 2016 la crescita registrata è dell'1,5%. Il partner commerciale più importante del paese è la Cina, seguita da Stati Uniti, Germania, Sud Corea, India, Giappone e Regno Unito. In Arabia Saudita si applica abitualmente la pena di morte e nel 2015 si è raggiunto il numero massimo di esecuzioni degli ultimi 20 anni, con almeno 157 persone condannate alla pena per decapitazione. L'Arabia Saudita pratica il wahabismo, che molti teologi sauditi preferiscono definire salafismo, una delle interpretazioni più restrittive dell'Islam sunnita. Professor Legrenzi, partiamo proprio da quello che era il finale della nostra fotografia del paese, fatta di numeri che ci hanno restituito già un primo affresco ricco di contraddizioni. Il wahabismo, che tipo di corrente è? Ci aiuti a capire meglio. Il wahabismo è una corrente puritana all'interno dell'Islam, che si è sviluppata proprio nella zona centrale, il Najd dell'Arabia Saudita, nei secoli XVIII e XIX. Questo tipo di puritanesimo non è solo un fenomeno religioso. Se vogliamo fare un parallelo un po' azzardato, pensiamo per esempio a quello che le Brigate Rosse tacciavano il Partito Comunista Italiano di essere, cioè li chiamavano berlingueriani e li accusavano di aver tradito i principi che essi stessi esponevano. E questa è la differenza tra lo Stato Islamico, Al-Qaeda, e i regnanti sauditi. Cioè, i movimenti di opposizione come lo Stato Islamico e Al-Qaeda non contestano le basi islamiche del regime, però tacciano i regnanti sauditi di ipocrisia, perché, come voi avete giustamente ricordato, l'Arabia Saudita è stato un partner strategico più importante in Medio Oriente per gli Stati Uniti negli ultimi 50 anni. Mi corregga se sbaglio, sintetizzando dicendo: il wahabismo crea un humus fertile, un ambiente fertile per certe forme estremistiche, Al-Qaeda e ISIS, allo stesso tempo però i frutti di quell'estremismo contestano al padre, all'Arabia Saudita, un eccesso di vicinanza col nemico, cioè gli Stati Uniti e l'Occidente più in generale. Esatto, se vogliamo ricordare una battuta di Nenni, bisogna stare attenti a fare i puri, perché si trova sempre qualcuno più puro di te che poi ti epura. E questo, diciamo, è l'aspetto insidioso per quanto riguarda la famiglia reale saudita dei movimenti come lo Stato Islamico ed Al-Qaeda. E in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano stiamo cercando di raccontare quella che è stata negli ultimi anni una forma di vero e proprio colonialismo dal punto di vista soprattutto religioso, ma poi con anche implicazioni economiche, perché l'Arabia Saudita ha iniziato a esportare il wahabismo costruendo moschee, costruendo scuole coraniche, formando gli imam in territorio saudita e poi rimandandoli nelle varie moschee in giro per il mondo, cercando di diffondere questa particolare dottrina dell'Islam. Ci sono due casi emblematici, di cui almeno uno lei l'ha toccato con mano, in cui l'Arabia Saudita è andata anche molto molto lontano. Partiamo dalla Corea, professore. Esatto, pochi sanno che vi sono fino a 40.000 coreani musulmani che si sono convertiti, hanno abbracciato diciamo l'Islam negli anni 70-80 quando lavoravano proprio in Arabia Saudita nell'industria per lo più delle costruzioni, e l'allora principe ereditario, poi re Abdallah, ha fondato la moschea di Seoul, dove io poi ho tenuto qualche lezione, nel 1978 in occasione di una sua visita in Corea. E questo diciamo è un modus operandi abbastanza comune da parte dei regnanti sauditi, cioè quello di fare una visita e poi appunto donare una moschea o una scuola. È naturale però che poi gli imam coreani sono stati anch'essi educati in Arabia Saudita, quindi, e poi sono tornati in Corea. Quindi è un caso interessante, ma diciamo forse meno noto di altri, ma sì, paradigmatico di quello che è il modo di agire della famiglia reale saudita. Sì. Siamo col professor Matteo Legrenzi, professore associato, direttore del Master in Studi Strategici e Sicurezza Internazionale alla Ca' Foscari di Venezia, per iniziare a mettere un po' di puntini fermi su quella che è un fenomeno estremamente complesso, che proviene da un paese estremamente complesso, spesso schiavo di stereotipi, molto più di altri paesi, un po' perché è difficile da raccontare, un po' perché esso stesso insomma è particolarmente impermeabile, ecco, mettiamola così. Nel breve stralcio audio che vi abbiamo fatto sentire in questo documento di ITV e PBS, coproduzione britannico-statunitense, questo lungo documentario girato a telecamere nascoste mostra tante delle contraddizioni del paese, il ruolo della donna, ma ci ricordava il professor Legrenzi che c'è una percentuale di iscrizione all'università e di uscita, quindi di laurea molto alto, le stesse donne che però per esempio non possono guidare automobili, c'è la pena capitale spesso fatta pubblicamente a scopo di deterrenza, c'è il petrolio, è il più grande esportatore del mondo, ma allo stesso tempo un quarto dei propri cittadini vivono al di sotto della soglia di povertà. Forse se dovessimo ridurre il tutto con un unico hashtag sarebbe contraddizione. Come contraddizione avviene quando l'Islam propugnato dall'Arabia Saudita sbarca in Africa. Io ricordo una conversazione particolarmente interessante che ebbi a Mogadiscio nel 2009 con un uomo d'affari che ricordava quando arrivarono i sauditi, e uso le sue stesse parole, arrivarono con la valigetta, disse: ma io sono africano, sono musulmano africano, non voglio che qualcun altro mi dica come deve esercitare la mia fede, e lamentava questa ingerenza già all'epoca appunto dei sauditi con la costruzione delle moschee, con la formazione degli imam eccetera eccetera. L'Africa è particolarmente interessante, professor Legrenzi. Assolutamente, se vogliamo fare un altro esempio preclaro, la Mauritania, dove recentemente per la prima volta si è tenuto il summit della Lega Araba, è un paese che aveva un Islam di scuola Maliki, influenzato molto dal sufismo, che assorbiva anche alcune delle tradizioni pregresse animiste. Però negli anni 70-80, appunto, come è successo in altri paesi africani, vi è stato questo impulso missionario saudita e abbiamo visto l'Islam in Mauritania cambiare in diciamo una direzione più conservatrice. E se poi vogliamo aggiungere un'ultima contraddizione, come lei giustamente ricordava, ricordiamoci anche per esempio che l'Arabia Saudita è il paese con il più alto numero di dottorati da università americane nel proprio governo, nel proprio cabinet, più ancora degli Stati Uniti. Quindi per anche dimostrare quanto questa ideologia conservatrice non però impedisca una partnership strategica con gli Stati Uniti, che è tra le più importanti in Medio Oriente a livello degli ultimi 50 anni. Sì. 349-238-6666, WhatsApp, SMS per i commenti e le domande. Ce n'è uno particolarmente interessante, firmato da Joe, che dice: che differenza c'è tra la religione usata dall'Arabia Saudita e la lingua inglese basica usata dagli inglesi americani per colonizzare il mondo? A mio parere nessuna. La dominanza religiosa è identica alla dominanza linguistica. Professor Legrenzi, mi sembra una bella provocazione. L'arma utilizzata può essere la religione, tra virgolette ovviamente, o la lingua, ma l'obiettivo è quello politico. È d'accordo con la lettura del nostro ascoltatore? Beh, mi sembra un parallelo un po' azzardato, ma senza dubbio dobbiamo concentrarci sul fattore coercizione. Bisogna ricordare che in entrambi i casi non è che ci sia una coercizione nel adottare una particolare lingua o una particolare variante della religione musulmana. Certo, c'è un'opera di proselitismo, questo avviene nell'Islam, ma anche in molte altre religioni. Questa è una cosa che abbiamo visto in altri momenti storici e con altre regioni. Allora, se l'Arabia Saudita nel racconto mediatico è spesso trattata con l'accetta o bianco o nero, amici o nemici, non viene restituita la sua complessità, forse quattro note messe in fila così ci aiuteranno a farlo. Sentite. E questo è il chiaroscuro in salsa hard rock che ci restituisce la band, si chiama The Accolade, una band femminile, fanno rock, sono nate in un quartiere di Jeddah, questo probabilmente perché la maggior parte di noi nella vulgata non si aspetta nemmeno una rock band al femminile proveniente proprio dall'Arabia Saudita. A 349-238-6666 altri stimoli, ad esempio un ascoltatore che non si firma dice: ma sei così grande e ricca, perché non ospitano loro tutti i migranti che arrivano da noi e perché voi non vi indignate? Allora, intanto, se c'è indignazione, c'è ad esempio per ancora il mantenimento della pena di morte, per esempio, ma poi arriviamo, se volete, cari ascoltatori, ad altri motivi di indignazione. I paesi del Golfo sono stati aspramente criticati per il fatto che non accolgono i siriani, non hanno accolto adeguatamente quote di rifugiati siriani, semplicemente sono regimi piuttosto diversi da quelli dai governi occidentali e d'altra parte hanno anche il petrolio, quindi hanno una leva politica formidabile che per noi non è conoscibile. 349-238-6666, continuate pure a scriverci, e fra l'altro ricordo, l'avete sentito anche dalla scheda, ospitano migranti molto spesso sfruttati nei lavori più umili, che è una caratteristica che accomuna parecchi di quei paesi nell'area del Golfo. Se andate a Dubai è una fotografia immediata, prendete il taxi all'aeroporto di Dubai e non vedete che immigrati, andate negli hotel ed è la stessa cosa. Io ringrazio il professor Matteo Legrenzi, professore associato e direttore del Master in Studi Strategici e Sicurezza Internazionale, Università Ca' Foscari di Venezia, a meno che, professore, non sia anche critico musicale, non voglia lasciarci con una piccola recensione anche sulla band, ma se no gliela risparmio. No, non mi azzardo, ecco. Però ricordo invece la centralità delle arti visive anche in Arabia Saudita, che talvolta anche questa non è enfatizzata sui media tradizionali, quindi vi consiglio, ci sono giovani artisti sauditi eccezionali, quindi cercateli e vedrete che anche loro vi stupiranno. Allora, vi rimando alla nostra pagina Facebook, Nel suo luogo lontano, trattino Radio 24, posteremo un po' di indirizzi, un po' di dritte per andare a rompere anche questo stereotipo. Grazie mille, professor Legrenzi, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi. My baby, my Pinocchio, my baby, my Pinocchio. Allora, proseguiamo con l'analisi del ruolo dell'Arabia Saudita. Il là, ve l'ho detto a inizio trasmissione, ci è stato dato da questo lungo articolo del New York Times che ha intervistato decine di esperti, analisti, giornalisti un po' in tutto il mondo per capire questo flusso di denaro che finanzia costruzioni di moschee, scuole coraniche, un po' tutto il mondo, in cosa si traduce? Semplice, lo dico tra virgolette, predominio religioso, o c'è un progetto di, chiamiamolo panarabismo, di egemonia politica? Entriamo un po' meglio nel dettaglio, perché quando si parla di egemonia, di solito si parla di amici e di nemici. E per capire chi sono amici e nemici in questa storia ci soccorre Raffaello Pantucci, direttore dell'International Security Studies al Royal United Service Institute. Professor Pantucci, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Grazie, buongiorno. Allora, stavolta andiamo un po' noi con l'accetta, un po' manichei. Se gli Stati Uniti sono il grande amico, ma lo dobbiamo mettere tra virgolette perché, come dire, è uno scomodo alleato al momento, o meglio, l'Arabia Saudita è uno scomodo alleato degli Stati Uniti, chi è il grande nemico dei sauditi? Ma il grande nemico dei sauditi, almeno dal loro parere, è l'Iran, è la grande comunità sciita che si trova nel mondo arabo, e vedono l'Iran come il re di tutta questa zona. E se guardiamo adesso, risalendo indietro qualche anno, possiamo trovare che tra tutti i problemi che l'Arabia Saudita vede nel mondo, ne vede dietro l'Iran. E se vediamo intorno al mondo, dove loro sono schierati in combattimento indietro a un gruppo o un altro gruppo, si trova di solito l'Iran dall'altra parte. Allora, se stiamo definendo Stati Uniti il grande amico e l'Iran il grande diavolo, il grande nemico, insomma chiamatelo come volete, ma ripeto, stiamo usando un po' l'accetta in questo momento, il recente riavvicinamento dell'Occidente a Teheran, questa apertura che il mondo occidentale ha fatto, beh, se l'Iran è un po' meno nemico, allora forse l'Arabia Saudita è un po' meno amica. Raffaello Pantucci. Ma è una storia molto complicata, perché da un lato uno dovrebbe vedere le cose in un modo abbastanza chiaro, che o sei nemico uno e poi questo ti crea un nemico nell'altro, però in realtà la cosa è molto più confusa di questa, anche perché se uno va a parlare con gente nell'Arabia Saudita o va a parlare con gente nell'Iran, entrambi vi dicono che sapete che voi siete schierati contro noi con quest'altro, e poi l'altro dice la stessa cosa e usano le stesse descrizioni per raccontare in termini molto, molto complicati e miste con storie conspiratorie, sì, che fanno dimostrare che l'Occidente è alleata con l'altra dell'altra parte. Il problema con l'Occidente è che noi siamo amici con entrambi in modi diversi. Da un lato, se vediamo alcuni paesi europei, in particolare l'Italia per esempio, che hanno visto questa apertura con l'Iran come una grande opportunità economica e stanno spingendo molto forte per ricreare un po' le relazioni che c'erano prima, però dall'altra parte l'Arabia Saudita rimane un alleato molto importante quando stiamo parlando di combattere il terrorismo, quando stiamo parlando di parlare di fonti petrolifere o anche di vendite d'armi, e il mondo del Golfo, in particolare l'Arabia Saudita, è uno dei paesi cuore. Allora vediamo che l'Occidente si trova in una situazione molto complicata, che io lì ho preso l'esempio dell'Italia in particolare, però sì, uno potrebbe mettere le stesse cose in termini con l'America, con l'Inghilterra, con la Francia, con tanti altri paesi che si trovano in una situazione dove vengono opportunità da tutti e due i lati e problemi da tutti e due i lati. Ha citato Raffaello Pantucci, lo ricordo, direttore dell'International Security Studies al RUSI, Royal United Service Institute, due parole che a noi di Nessun Luogo sono state molto a cuore in delle scorse puntate. Una è petrolio e l'altra è armi. Abbiamo ricordato come l'impegno saudita sullo Yemen implica un fiorente commercio di armi, un'industria bellica, quella su tutte, quella britannica, ma anche quella statunitense, ma anche quella italiana, che ha tratto giovamento da quella campagna di cui abbiamo più volte denunciato violazioni dei diritti umani, utilizzo di armi non convenzionali. Tra poco dovremmo avere l'informazione finanziaria. Sì, c'è. Allora facciamo una piccola pausa, sentiamo le ultimissime dalla borsa e poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo È Lontano. Ben ritrovati a Nessun Luogo Lontano, approfondimento tutto dedicato all'Arabia Saudita, quell'Arabia Saudita che il New York Times in prima pagina ieri definiva colei che appicca il fuoco e colei che poi cerca di spegnerlo, facendo riferimento alla propagazione di questa ideologia, il wahabismo, questa corrente dell'Islam particolarmente puritana, particolarmente retrograda, che poi diventa terreno fertile per estremismo, ma anche per terrorismo. Al 349-238-6666 un paio di sollecitazioni molto interessanti. È vero che noi facciamo il programma, ma voi ci date molto spesso una grossa mano. C'è chi chiede se è vero che agli immigrati in Arabia Saudita viene ritirato il passaporto. C'è un recente rapporto di Human Rights Watch proprio sull'Arabia Saudita che dice: per 2 milioni e 400 mila lavoratori stranieri spesso accade che gli venga sequestrato il passaporto all'arrivo, impossibilità di cambiare lavoro senza consenso del datore di lavoro, orari durissimi e nessun riposo settimanale. Questo per darvi un'idea delle condizioni di vita appunto in Arabia Saudita. Riguardo al flusso di denaro, qui facevo riferimento a inizio di trasmissione, le donazioni dell'Arabia Saudita per la costruzione di moschee non sono dati certi. Alcuni rapporti che escono da Wikileaks parlano di centinaia di milioni di dollari l'anno, solo per il Pakistan sarebbero appunto 100 milioni di dollari l'anno. Fatemi tornare però da Raffaello Pantucci, perché c'è un tema fondamentale. Quando parliamo della faccia a faccia tra Iran e Arabia Saudita, parliamo di due grandi paesi, uno che abbraccia la corrente sciita, l'altro che abbraccia la corrente sunnita. Quanto la contrapposizione scia-sunni è propellente ideologico, quanto è reale, quanto in realtà lo scontro alla fine è politico fra la rivoluzione comunista e invece la dinastia saudita, appunto. Professor Pantucci. Sì. Eccolo. Sì, scusa, no, mi dica. No, scusa, il telefono si era un po'. Ho perso un po' l'ultimo pezzettino. Stavo dicendo quanto la contrapposizione tra sunniti e sciiti, Iran e Arabia Saudita, in realtà non sia religiosa, ma nasconda semplicemente un tentativo di avere un'egemonia politica. Ma sai, è una domanda molto, molto chiave, perché sai, risale a veramente i vertici del problema e delle relazioni fra i due. Perché da un lato c'è questa teoria che dice la storia fra i sunniti e i sciiti è stata una cosa che, risalendo ai primi del mondo islamico, è stata una battaglia fra i due. Però la verità è che i termini nella quale vediamo il combattimento al momento e la lotta fra i due è una cosa abbastanza nuova. Se guardiamo indietro agli anni 70 o il periodo dopoguerra, l'Arabia Saudita e l'Iran al tempo erano più vicini. Infatti entrambi si vedevano come alleati dell'Ouest e l'Occidente e si vedevano schierati assieme in un mondo arabo in termini di organizzazioni intergovernamentali come l'OPEC o qualcosa. Sì. E adesso invece la reazione è un po' cambiata fra i due. Però adesso il problema un po' è diventato che più uno parla di questa lotta fra i sunniti e i sciiti, più si avvera la cosa. Allora è possibile che magari all'inizio uno parlava di una cosa che era più una reazione a una rabbia politica fra i due paesi. Sì. Il fatto che vedi adesso gruppi come il Stato Islamico, Al-Qaeda, che hanno usato molto questa lotta fra i due per radicalizzare le loro persone, per creare una lotta che stanno combattendo, più la cosa si avveri, perché più la gente vede storie di sai, massacri di sciiti da sunniti e dall'altro lato, e questo un po' crea un po' il problema. Allora magari se uno potrebbe parlare di una cosa che all'inizio era una cosa magari un po' più politica, un risultato di un cambio in governo in Teheran in particolare, adesso vediamo una cosa che questa si è creata, si è avverata in un certo senso questa lotta fra i sunniti e i sciiti. Grazie mille, professor Raffaello Pantucci, dirige l'International Security Studies al Royal United Service Institute. Buona giornata e buon lavoro, Pantucci. Grazie, buona giornata a lei. Domande, scusate, commenti o suggerimenti. Oggi parliamo dell'Arabia Saudita e di questo motore formidabile di diffusione del wahabismo, costruzione di moschee, costruzione di scuole coraniche, allacciamento di rapporti con vari paesi, anche quelli più lontani. Avete sentito la Mauritania, la Corea del Sud. Un motore formidabile che vale centinaia e centinaia di milioni di dollari. E che frutti dà? Perché i sauditi cercano di creare questa rete così diffusa, così morbida, se volete, no? E utilizzano la religione, utilizzano l'Islam, quella particolare lettura dell'Islam, per diffondersi in questo modo. Questa è un po' la domanda nel cuore, al cuore della puntata di quest'oggi di Nessun Luogo è Lontano. Poi però c'è un aspetto tutto interno ed è quello sul quale vorrei sollecitare il prossimo ospite, che è Francesco Strazzari, che è professore associato di relazioni internazionali alla Scuola Sant'Anna di Pisa, insegna anche al Norwegian Institute of International Affairs di Oslo. Professor Strazzari, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, c'è un aspetto che non abbiamo toccato, ma credo che sia particolarmente interessante. In casa saudita non è che tutto vada bene, c'è un po' di fibrillazione. Ci aiuti a capire meglio cosa sta accadendo a Riyadh? Sì, le rigide regole di successione e di comportamento a corte sono sconvolte ormai da qualche mese, dalla morte di re Abdallah, che ricordavate, con la successione di un re molto più conservatore, che ha segnato una svolta sia sul piano delle libertà civili sia soprattutto delle politiche economiche, a fronte del fatto che abbiamo un ministro tecnocrate del petrolio che è fermo, immobile da 20 anni, e questo scontro che si è andato profilando negli ultimi mesi vede due Muhammad, l'uno figlio del nuovo re Salman, che però è il principe ereditario vice, e l'altro invece, che dovrebbe essere l'ascendente al trono, che invece è Bin Nayaf, il quale però in questo momento, nonostante la forte scommessa da parte statunitense, è un uomo dell'intelligence, è considerato il principe delle tenebre della politica saudita, ha una stella declinante, perché il giovane Salman, che è anche un eroe pop per quello che riguarda l'immaginario collettivo dentro l'Arabia Saudita, è in ascesa, è un giovane trentenne, appena compiuti 30 anni, ed è l'architetto proprio della guerra nello Yemen, che ricordavate prima. Sì. È anche l'uomo che coordina le operazioni militari sui cieli, ma è anche quello che ha lanciato la politica di diversificazione economica rispetto al barile di petrolio. Insomma, è una figura chiave che però è considerata mercuriale, un comportamento instabile che crea molta apprensione soprattutto a Washington. È molto interessante poi entrare anche, no, nei palazzi della politica saudita, perché ricordiamolo, è il più grande esportatore di petrolio al momento, ma il petrolio prima o poi finirà. E cito un conoscente libanese che mi disse, anche con sprezzante, perché poi insomma immaginate, i libanesi, c'è una certa rivalità, li chiamano in maniera appunto sprezzante i beduini, e mi diceva: vedrete che quando finirà quel petrolio torneranno sui loro cammelli. Per cui c'è anche tutto una visione che evidentemente i sauditi devono avere del futuro del paese che vogliono, che ovviamente non potrà dipendere esclusivamente petrolio. Professor Strazzari, vorrei però chiamarla in casa su un altro caso. Stiamo raccontando di esportazione del wahabismo, di costruzione di moschee in giro per il mondo, con un fine evidentemente non solo religioso ma anche prettamente politico. Poi torniamo sul punto specifico. Sono arrivati anche molto molto vicini a noi. Lei ha vissuto un caso che ha potuto studiare e osservare in prima persona nei Balcani, ce lo racconti? Beh sì, durante la guerra in Bosnia i sauditi erano presenti assieme agli iraniani, che poi furono in qualche modo messi fuori gioco dall'intervento statunitense, ma poi li abbiamo rincontrati fortemente presenti attraverso la rete di associazioni di aiuto interislamico nella guerra in Kosovo. Io ricordo che tra i rifugiati, parliamo di centinaia di migliaia, che affluirono in Macedonia, i notabili locali stavano ad aspettare, facevano la fila davanti all'arrivo dei sauditi da una parte e dai turchi dall'altra, che si differenziavano sostanzialmente perché mentre la donazione da parte turca era una donazione che passava attraverso confraternite, un Islam diciamo che si mescolava con le fratellanze e il mondano, quello saudita invece era l'Islam della moschea nuova in vetrocemento, che arrivava preconfezionata e non andava verso nessun tipo di mediazione. Tutto questo lo si è visto nella guerra in Mali, lo si è visto da altre parti, e non ha solo una marca, diciamo, statale, perché sì, è vero, c'è la soft diplomacy religiosa, c'è tutta l'azione che lo Stato saudita porta avanti con le fondazioni culturali, finanziando la ricerca, mettendosi anche al riparo dalla critica nel mondo universitario, ma ci sono anche quella versione particolare che poi diventa jihadista, che invece di marca dei rami, diciamo, espunti dalla dinastia Saud, i rami marginali, quelli che poi hanno portato i Bin Laden, per intenderci, che invece coltivano il vittimismo populista, panislamista, che poi invece dall'Afghanistan in poi lo troveremo protagonista delle vicende più tragiche. Sì. Professor Strazzari, noi a un certo punto abbiamo giocato, tra virgolette, nel definire i buoni e i cattivi, insomma, Iran, Arabia Saudita da una parte e dall'altra, però c'è un altro giocatore che dal Primavere Arabe, dal 2011, ha giocato un ruolo fondamentale che è in feroce competizione con l'Arabia Saudita e si chiama Qatar. Eh beh sì, l'emir del Qatar è quello che ha preso al petto la questione delle primavere arabe e ha sponsorizzato un'agenda di democratizzazione interventista, presentissimo, utilizzando ovviamente Al Jazeera, soprattutto la versione araba di Al Jazeera, come alfiere di questo passaggio, per esportare un'idea molto vicina al compromesso dei Fratelli Musulmani, che si avvicinano al risultato elettorale, lo vincono in Egitto, avanzano in Tunisia e altrove. Ebbene, questo tipo di ragionamento viene vissuto a Riyadh come un tradimento dell'istanza invece conservatrice. Riyadh conservatrice in quanto, ricordiamolo, tutela i luoghi santi dell'Islam, c'è tutto il problema dei pellegrinaggi e anche economico ovviamente. Ebbene, questa rivalità vede però alla fine il Qatar, dopo il colpo di Stato in Egitto, ricordiamo che però i salafiti e i wahhabiti in Egitto approvarono il colpo di Stato contro il governo di Morsi, questo è significativo di come si giocasse una partita per interposta persona, e insomma il Qatar in questo momento sembra un po' rientrare nei ranghi, in qualche misura riallineandosi, e i Fratelli Musulmani sono stati lasciati in una posizione in cui è prevalentemente la Turchia a farne, diciamo, la bandiera internazionalmente. Sì, sì. Professor Francesco Strazzari, ho un'ultima domanda per lei, prima però andiamo sulle strade italiane. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, ultima pagina di Nessun luogo è lontano. Vorrei però esaurire questo argomento, che lo ricordo è quello che campeggiava sulla prima pagina del New York Times: il ruolo dell'Arabia Saudita esporta il wahabismo, crea delle condizioni per l'estremismo, lo alimenta, poi alla fine lo deve anche combattere. Questo ruolo paradossale, queste contraddizioni che permeano un paese molto poco raccontato e rispetto al quale, per tornare a quella dicotomia Iran e Arabia Saudita, i due grandi nemici, beh, forse dal punto di vista della sensazione, del feeling, del racconto, l'Iran sì è molto spesso tratteggiato come diabolico, come un grande nemico, però forse c'è più simpatia, più vicinanza, merito forse della diaspora iraniana che sta a Parigi, che sta a Londra. Sull'Arabia Saudita c'è sempre questa impermeabilità, complice probabilmente un racconto che i media non restituiscono adeguatamente, ed è una lacuna che cerchiamo in questi 40 minuti di colmare. 349-238-6666 per gli ultimissimi commenti. Tra poco cambiamo argomento, però ho l'ultima domanda per Francesco Strazzari, che è un po' la domanda chiave. Professor Strazzari, alla fine moschee dalla Corea del Sud alla Mauritania, passando per il Mali e finendo in Bosnia, perché? Qual è l'obiettivo finale? Che rete si crea favorevole a che cosa in un prossimo futuro? Sintetico se può. C'è un posizionarsi rispetto a dinamiche estremamente fluide e magmatiche del mondo musulmano, che è demograficamente in crescita e che cerca in qualche misura nell'Arabia Saudita, nella misura in cui l'Arabia Saudita cerca di finanziare università fino a petrolio e tutte le operazioni che vengono fatte sui mercati, di giocare un gioco di supremazia, di guida, e quindi di portare avanti il proprio brand a tutti i costi e senza compromessi. Era Francesco Strazzari, professore associato di relazioni internazionali alla Scuola Sant'Anna di Pisa, al Norwegian Institute of International Affairs di Oslo. Grazie mille, professor Strazzari. Buona giornata. A risentirci. Alla prossima. Valeria Bernardi, questa è già Gulnara Karimova, giusto? È lei, sì. Allora vuol dire che stiamo cambiando pagina e stiamo andando in un altro paese. Beh, se l'Arabia Saudita è molto poco raccontata, figuratevi l'Uzbekistan. Sen gidersen, cönginen sen gidersen Olis yıllar seni çorlar çorlar zaman. E il là, ed è il caso di dirlo, ce lo dà una notizia di cronaca che ci dice che il presidente Karimov ha sofferto di un ictus, le sue condizioni di salute non sarebbero buone. In realtà le fonti sono piuttosto controverse, non si capisce quanto grave sia stato il malore che lo ha colpito proprio poche ore fa. La voce che sentite è quella della figlia, la figlia prediletta che ha svoltato nella sua vita con una carriera da cantante pop, una donna molto bella, si è guadagnata copertine, abiti griffati, un posto anche nel mondo della moda, ma poi in realtà pare, le cronache ci restituiscono, di una lite con la madre e la sorella che l'avrebbe messa in cattiva luce col padre, e insomma se le note e anche la carriera si è un po' diffusa. Sfumata. Allora, apriamo questa parentesi tutta uzbeka, lo facciamo con Matteo Fumagalli, professore associato di relazioni internazionali alla Central European University di Budapest. Professor Fumagalli, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, prima domanda, se lei ha qualche notizia in più sulle condizioni di salute del presidente Karimov, perché da lì si apre un discorso sulla possibile successione. Ma la morte di Islam Karimov è stata annunciata varie volte negli ultimi 10 anni e ogni volta Karimov si è ripresentato più forte di prima. Ora, il governo uzbeko non è noto per diffondere notizie, per la sua comunicazione, sì. Per cui già il fatto che la famiglia abbia deciso di divulgare notizie sul pessimo stato di salute di Islam Karimov è una novità. E presumibilmente ci dice che effettivamente siamo agli sgoccioli, sì. E che la successione si sta preparando, o probabilmente i patti per la successione sono già stati firmati, per così dire. Sì. Professor Fumagalli, stia con noi, perché noi all'inizio di ogni pagina di Nessun Luogo Lontano amiamo fotografare i paesi. Un regime brutale, responsabile di torture, repressioni di massa e assassini politici su una popolazione di 28 milioni di abitanti. Una dynasty familiare a base di corruzione, tradimenti e intrighi sullo sfondo della leggendaria Samarcanda. Uno snodo cruciale per i gasdotti e gli oleodotti dell'Asia centrale. Una nazione abbracciata dalla Valle di Fergana, tradizionale bacino di coltura per i guerrieri talebani. L'Uzbekistan è tutto questo e molto altro. E, adesso che il padre padrone Islam Karimov è in terapia intensiva, dopo un'emorragia cerebrale, la lotta per la successione alla presidenza potrebbe ripercuotersi sugli equilibri dell'intera Asia centrale. Karimov, 78 anni, vanta il solito curriculum del despota centrasiatico. Ex funzionario del Partito Comunista, diventa presidente della neonata Repubblica subito dopo il crollo dell'Unione Sovietica, piazzando subito i suoi fedelissimi nei posti chiave del governo e dell'economia. Il clan Karimov ha origini oscure, Islam è cresciuto in un orfanotrofio, ma governa l'Uzbekistan con pugno di ferro, spazzando via qualsiasi opposizione. Il 13 maggio 2005 gli apparati di sicurezza uccidono centinaia di persone scese in piazza contro la corruzione, in quello che è passato alla storia come il massacro di Andijan. Ma Karimov è abile, gioca su più tavoli con Washington, Mosca, Bruxelles e Pechino, e la concessione delle sue basi militari per la lotta contro i talebani lo rende un partner necessario in una zona instabile. Intanto, i servizi segreti uzbeki vanno all'estero a caccia di oppositori, molto spesso imam più o meno radicali, e sono responsabili di diverse esecuzioni da Istanbul alla Svezia. Il regime ha anche un volto glamour, incarnato dalla figlia Gulnara Karimova. Gulnara è una socialite di casa alle sfilate di moda europee, si cimenta come cantante, finanzia film con Gérard Depardieu e duetti con Julio Iglesias. Presunta candidata alla successione del padre, in un paese in cui le elezioni sono una farsa, si ritrova al centro di una maxi inchiesta internazionale per riciclaggio che spinge il padre a recluderla in una gigantesca villa della capitale, Tashkent. La notizia della malattia del dittatore è stata diffusa dalla seconda figlia, Lola Karimova-Tiliaeva, ma al momento nessuno può dire con certezza chi sarà il prossimo presidente despota uzbeko. Professor Matteo Fumagalli, professore associato di relazioni internazionali alla Central European University di Budapest, troppo feroce questa fotografia, o insomma ci deve bacchettare, o l'abbiamo ritratto bene questo Uzbekistan così poco raccontato? Sostanzialmente è accurata, diciamo che è un sistema clientelare che ha controllato il paese per l'intero periodo post-sovietico, e il cui valore aggiunto per tutti i paesi vicini e anche meno vicini è stata la stabilità che è stata mantenuta all'interno e nella regione, chiaramente a caro prezzo. Sì. Qualsiasi sia lo scenario che si apre relativamente alla successione alla presidenza, cambierà il ruolo strategico dell'Uzbekistan? Cioè, sono possibili cambiamenti di rotta radicali, secondo lei, o come dire, un ruolo predestinato? Dipende innanzitutto da come. Dalla direzione che prende la successione. diciamo che la Russia presumibilmente spera che l'attuale primo ministro prenda posto di Islam Karimov, visto che tra le elite uzbeche è probabilmente quello, la figura più filorussa. C'è da dire che la politica uzbeka, anche in epoca sovietica, ci abbiamo abituati a grandi periodi di stabilità o stagnazione, diciamo, dipende dai punti di vista. Per cui anche le elite politiche e economiche del paese avranno interesse a non cambiare nulla. L'ultimissima sollecitazione, professor Fumagalli, le chiedo massima sintesi perché siamo in chiusura. Quanto il rischio terrorismo, la questione terrorismo islam radicale è preoccupante secondo lei? Al momento non tanto, diciamo che il regime di Karimov è stato tra quelli che hanno alimentato più di altri la minaccia islamica, attuando politiche anti-islamiche, diciamo, il governo greco si è distinto per avere politiche particolarmente aperte alla religione. I combattenti uzbeki sono tradizionalmente spostati nel Waziristan meridionale fino al 2012, sì. Dopodiché si sono raggruppati nella zona di Aleppo, fra le file di Al-Nusra e poi di Daesh. Stiamo parlando però di poche centinaia di persone. C'è da dire che nel caso di una mancato patto sulla successione e di un disordine, si aprirebbe una finestra di opportunità per il rientro di un numero maggiore di combattenti. Però al momento certo. Questo è uno scenario remoto che dipende sostanzialmente dalla mancanza di un accordo tra le varie elite politiche vicine al cerchio. Chiarissimo. Chiarissimo. Grazie mille. Matteo Fumagalli, professore associato di relazioni internazionali alla Central European University di Budapest. Buona giornata, buon lavoro. Buona giornata, grazie. Allora. Una buona giornata anche a voi, buon proseguimento gentili ascoltatori, vi ringrazio anche a nome di Eleonora Aragona, Antonio Talia, Silvia Mannati, Valeria Bernardi, l'appuntamento questa sera ore 21 per la replica, poi ore 16 se volete di nuovo domani, nessun luogo sarà lontano, intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.